Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Ben ritrovati anche in questo giovedì 6 settembre. La voce che sentite è quella di Giulio Caperdoni, tutti i giorni presenti a quest'ora, minuto più, minuto meno, per Eclettica. Un'ora da passare assieme alla musica, ai film e alle letture che caratterizzano questa trasmissione. Il mattino Rémy e Liane dormivano, mentre io preparavo le mie cose in silenzio e scivolavo fuori dalla finestra, così come ero venuto, e lasciavo Milsidi con la mia valigia di tela. E non trascorsi mai quella notte sul vecchio battello fantasma, l'Admiral Freebie si chiamava, e Rémy e io fummo perduti l'uno per l'altro. A Auckland presi una birra, mescolato ai vagabondi di una bettola, con una ruota di carro per insegna, e fui di nuovo in viaggio. Camminai attraverso tutta Auckland per raggiungere la strada di Fresno. Due passaggi mi portarono a Bakersfield, 600 km a sud. Il primo fu pazzesco, con un ragazzo biondo, corpulento, in un bolide fuori serie. «Vede questo dito del piede?» mi disse mentre spingeva l'arnese a 130 all'ora e superava tutti lungo la strada. «Lo guardi?» Era tutto avvolto nelle bende. «Me l'hanno amputato stamattina. Quei bastardi volevano che rimanessi all'ospedale. Io ho fatto la valigia e me ne sono andato. Che è un dito, infine?» «Sì, infatti», mi dissi, «sta attento adesso», e mi tenevo ben aggrappato. Non si era mai visto al volante un pazzo come quello. Arrivò a Tracy in un baleno. Tracy è un paese di ferrovieri. I frenatori consumano tristemente i loro pasti immense accanto alle rotaie. I treni ululano via attraverso la vallata. Il sole si corica lento e rosso. Ci passavano accanto tutti i magici nomi della vallata, Manteca, Madeira e gli altri. Presto venne il crepuscolo, un crepuscolo vinoso, un crepuscolo color porpora sopra i giardini di mandarini e i lunghi campi di meloni. Il sole era del colore dell'uva spremuta, con squarci di rosso borgogna, i campi color dell'amore e dei misteri di Spagna. Sporsi la testa dal finestrino e aspirai boccate profonde dell'aria fragrante. Fu il momento più bello di tutti. Questo era ancora Sulla strada di Jack Kerouac. Thank you. And you're not with him, you regret it. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. Cerco di fare del mio meglio per quanto riguarda Eclettica. Ho in testa un mio ideale di trasmissione e cerco di starci il meno lontano possibile. Cerco di avvicinarmi di più che posso per riuscire a rendere la trasmissione per come la ho nella mia testa. E la risposta da parte vostra è molto, molto importante per capire se quello che poi io ho in testa possa più o meno avere senso per chi si sintonizza su Rock FM fra le 19 e le 20, ma a volte rimango a bocca aperta, se non addirittura mi avvicino alla commozione, quando ricevo mail molto stringati, brevi, durante l'ora di trasmissione, come quello che ho ricevuto qualche sera fa, che mi lasciano assolutamente inebetito. Riuscite a dirmi determinate cose che mi colpiscono nel profondo, come questo che è arrivato l'altra sera, vedo qua al minuto, 19:36. Ciao Giulio, che atmosfere, sempre diverse, sempre coerenti. Ogni volta è come rivivere ricordi ed emozioni che non mi appartengono, ma che tu rendi reali. Che stile. Grazie. Cerco di non perdere mai una puntata, ma non è facile, perché a Torino passate solo da quel maledetto cavetto di rame. Grazie anche per avermi incuriosito con i racconti brevi di Woody Allen. Taca, da Torino. Grazie a tutti voi. Ho preso semplicemente Taca ad emblema degli ascoltatori di Eclettica. Un veloce riassunto di quanto vi siete ascoltati. Gli Early Mart, un disco, è del loro quinto, per la formazione di Los Angeles, il duo di Los Angeles, che io definirei elegante. Questo disco, Mentor Tormentor, non potrei se non definirlo elegante. Mentor Tormentor, che ci siamo ascoltati con il brano dal titolo Happy Alone. Poi da Chicago, The 90s, appena ascoltati con Georgia, The 90s, che sono arrivati al loro esordio su lunga durata. L'anno scorso erano usciti con un semplice EP. E invece Cold and Kind uscirà per Parasol il 2 di ottobre. Ed ora vediamo di recuperare il tempo perduto, ovvero sia di andare a recuperare un disco bello uscito a fine di maggio, ma che in Eclettica ancora non aveva trovato spazio. Loro provengono da Brighton, si chiamano The Maccabees, e il pezzo che ci ascoltiamo è proprio quello che chiude l'intero album, la traccia numero 12, Tooth Past Kisses. Cradle me, or cradle you, I'll win your heart with a whoop. Pulling shapes just for your eyes. So with toothpaste kisses and lines, I'll be yours and you'll be. Lay with me, I'll lay with you. We'll do the things that lovers do. Put the stars in our eyes. And with heart-shaped bruises and late-night kisses, divine. Pazzo faceva il frenatore per la Southern Pacific e abitava a Fresno. Anche suo padre era frenatore. Aveva perso il dito del piede negli scali di Oakland, azionando uno scambio, ma non riuscì a capire bene come. Mi portò nella rumorosa Fresno e mi lasciò nella parte sud della città. andai a bermi una coca in gran fretta in una piccola rivendita accanto alla ferrovia e là, lungo i rossi carri merci, arrivò un giovane armeno malinconico e proprio in quel momento una locomotiva ululò e io mi dissi «Sì, sì, il paese di Saroyan». Dovevo andare a sud. Mi rimisi sulla strada. Un uomo in un camioncino scoperto nuovo fiammante mi prese su. Era di Lubbock, nel Texas, e commerciava in roulotte. «Vuol comprare una roulotte?» mi chiese. «Venga a trovarmi quando vuole». Raccontò certe storie su suo padre a Lubbock. Una sera il mio vecchio lasciò gli incassi della giornata posati in cima alla cassaforte, dimenticandosene completamente. Che successe? La notte venne un ladro con la fiamma d'acetilene e tutto. Forzò la cassaforte, sparpagliò le carte qua e là, prese a calci alcune sedie e se ne andò. E quel migliaio di dollari stava là posato sul piano della cassaforte. Che gliene pare di questo? Mi lasciò a sud di Bakersfield e allora ebbe inizio la mia avventura. Cominciò a fare freddo. Mi misi il sottile impermeabile militare che avevo comprato ad Oakland per $3. Era brividì sulla strada. Stavo fermo davanti ad un autostello decorato in stile spagnolo che brillava come un diamante. Passavano le macchine dirette a Los Angeles. Io facevo gesti frenetici. C'era troppo freddo. Rimasi là fino a mezzanotte, 2 ore di fila, e imprecavo e imprecavo. Era di nuovo proprio come a Stuart, nell'Iowa. Non c'era nient'altro da fare che spendere poco più di $2 per fare in autobus i restanti chilometri fino a Los Angeles. Questo era ancora Sulla strada di Jack Kerouac. Played once, Sam. For old time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Play as time goes by. C'è veramente tanta musica interessante là fuori in questo momento, tanti nomi nuovi interessanti. Io spero di avere spesso la capacità, a volte la fortuna, di riuscire a coglierla, questa musica, in modo da potervela porgere, portare alla vostra attenzione. Come per esempio The Pains of Being Pure at Heart, appena ascoltati con Doing All the Things That Wouldn't Make Your Parents Proud. Prima ancora era stata la volta di Travis Morrison, Hellfighters, con As We Proceed, ed ora, per presentare il prossimo pezzo, vedo di parlarvi di un qualcosa a cui già avevo fatto cenno ieri. Solo gli appartenenti alla lista nera avranno la possibilità di avere il dettaglio, avranno la possibilità di vincere gli abbonamenti al Next Tech Festival, quindi tutto verrà fatto non in trasmissione ma via mail. Il Next Tech Festival è la seconda edizione a Firenze dal 20 al 22 settembre 2007 presso gli splendidi spazi della stazione Leopolda. È una presenza, quella dell'anno scorso, che è stata straordinaria, con la presenza di pubblico, 9.000 spettatori per 3 giorni, straordinari l'hanno definito ovviamente gli organizzatori. Vedremo quanti andranno quest'anno convinti dal programma di cui fanno parte diversi nomi. Io vi rimando al sito per recuperare il dettaglio, che altrimenti, vi ripeto, è disponibile in lista nera, www.nexttechfestival.com. Ci sono degli abbonamenti in palio. Uno dei nomi che compariranno all'interno del Festival di Musica Elettronica Ambiente Visivo, giunto alla sua seconda edizione, è quello degli Stateless.